delle belle chiamò il padron mio, un catalogo gli è che ho fattio. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, Francia e Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere e cittadine, a contesse e baronesse, marchesani, principessi, i bandoni, donne età, donne età, donne età. In Italia, 640. In Lavagna, 231. Cento in Francia, in Turchia, 91. Ma, voi sapete quel che fa, voi La, che bel

Oh,

Yeah. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。